La nozione di creazione. Creazione come atto d'amore. Si tratta di studiare qui la creazione intesa come atto creativo e non come effetto. La particolarità di questo atto è il fatto che esso fonda la distinzione tra Dio e il mondo e ne costituisce il rapporto. Come si è già messo in evidenza a proposito della creazione dal nulla, si sta parlando del transito radicale dal non essere all'essere. In quest'atto, dunque, si produce l'intero essere delle cose. Dio produce ciò che esiste in quanto esiste con tutta la sua realtà, compresa l'idea che la fonda. Ciò costituisce anche la bontà del termine dell'azione, poiché esso ha interamente origine in Dio e mette in evidenza la libertà di Dio, che non crea per bisogno o per migliorarsi. Infatti, egli non subisce cambio alcuno nel creare, non perde né acquista perfezione. Filosoficamente, questo si spiega con la dottrina della partecipazione che Tommaso distingueva in predicamentale univoca e trascendentale analoga. Nel primo caso, ciò che è partecipato non esiste in sé, ma solo in coloro che ne partecipano, ciascuno dei quali lo possiede secondo il suo pieno contenuto essenziale. Così, ad esempio, la natura umana è partecipata da ogni uomo. Il secondo caso è invece quello di Dio e della creazione, nel quale solo Dio ha la pienezza dell'essere, mentre tutto ciò che esiste fuori di Lui partecipa dell'atto di essere senza identificarsi con esso, cioè è un essere, ma non è l'essere. Ciò implica la totale dipendenza della creatura rispetto al creatore. In questo modo si vede che la creazione è in un certo senso fuori di Dio, ma che Dio è presente nella creazione stessa senza identificarsi con essa. Quanto detto può sembrare arido, ma è un presupposto del riconoscimento della creazione come dono e come atto di amore. Le affermazioni precedenti non sono sufficienti perché si parli di amore, ma sono necessarie. Se Dio avesse bisogno della creazione, non potrebbe esserci dono assoluto. Per comprendere appieno cosa vuol dire l'atto creativo, dobbiamo metterci nella prospettiva del soggetto dell'azione. Ha scritto Giovanni Paolo II nelle sue catechesi: «L'intelligenza umana può da sola giungere a formulare la verità che il mondo e gli esseri contingenti, non necessari, dipendono dall'assoluto, ma la formulazione di questa dipendenza come creazione, quindi in base alla verità circa la creazione, appartiene originalmente alla rivelazione divina». E in questo senso è una verità di fede, 15 gennaio 1986. Solo grazie alla fede si può avere accesso all'intimità personale di Dio, di cui Giovanni Paolo II ha scritto: «Ha fatto conoscere a tutti coloro che accolgono la sua rivelazione, non soltanto che proprio Lui ha creato il mondo, ma soprattutto che cosa significa essere creatore», 15 gennaio 1986. Adesso si tratta quindi di guardare alla creazione a partire da Dio, dal suo intimo. Si tratta di pensare al perché della creazione a partire dalla Trinità, dal cuore di Dio, da dentro. E solo la rivelazione ci permette di affacciarci a questa dimensione. È significativo che Agostino inizi la sua analisi delle affermazioni letterali della Genesi proprio dalla Trinità. Agostino, la Genesi alla lettera, prima, in particolare 6.12. Nella croce di Cristo scopriamo che l'amore è più forte della morte e che il Padre ha dato il suo Figlio per noi, per riscattarci. Qui scopriamo il vero valore della creazione, di quel disegno che l'uomo ha intaccato con il peccato originale. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 8:38-39. Già nell'Antico Testamento appare la fedeltà di Dio al suo amore. Si trovano, è vero, affermazioni dure di ira e punizione, ma sempre accompagnate anche da espressioni come: «Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo ad esserti fedele», Geremia 31.3. Isaia, nel quarto canto del servo di Yahweh, riferito poi dall'esegesi patristica direttamente a Cristo, dice che anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, l'affetto del Signore non si allontanerebbe dall'uomo, perché Dio continuerebbe ad usargli misericordia. Isaia 54, 7-10. Paolo riconosce che i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Romani 11,29. Giovanni, il grande testimone dell'amore di Dio, mette in evidenza che la nostra fede è fede nell'amore. Basti pensare al seguente testo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 1 Giovanni 4, 7-10. Così l'atteggiamento di Dio nei confronti della creazione è paterno. Giocavo sul globo terrestre ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Proverbi 8,31. Il mondo è stato creato dall'amore e per amore. Da questa prospettiva allora si comprende quanto afferma Giovanni Paolo II. L'onnipotenza rivela anche l'amore di Dio che creando dona l'esistenza ad esseri diversi da Lui e insieme differenti tra di loro. La realtà del suo dono permea tutto l'essere e l'esistere del creato. Creare significa donare, donare soprattutto l'esistenza. E colui che dona ama. Lo afferma l'autore del libro della Sapienza quando esclama: «Tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creata». E aggiunge: «Tu risparmi tutte le cose perché tutte sono tue, Signore, amante della vita». Sapienza 11, 24-26. L'amore di Dio è disinteressato. Mira soltanto a che il bene venga all'esistenza, perduri e si sviluppi secondo la dinamica che gli è propria. Dio creatore è colui che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà. Efesini 1,11. E tutta l'opera della creazione appartiene al piano della salvezza, il misterioso progetto nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore dell'universo. Efesini 3,9. 5 marzo 1986. A volte pensiamo che l'atto libero è quello che si mette in opera senza una ragione, senza un fine, ma non è così, perché sempre si agisce per un fine, sempre si fa del bene a se stessi e agli altri, sempre si parte da un'idea di ciò che è buono e si formula un giudizio sulla possibilità di realizzare questo bene. L'uomo in sé è incapace di compiere un'azione puramente disinteressata. A livello umano si parla di filantropia, ma in un certo senso essa è impossibile. Addirittura la pretesa di essere filantropi usurperebbe quello che solo è di Dio. L'uomo è in sé incapace di amore totalmente disinteressato, di dono autentico. Può solo amministrare quello che ha ricevuto e comunicare quanto ha ricevuto. Può ridonare il dono. In realtà solo Dio può amare disinteressatamente, può avere amore totalmente oblativo. L'amore di Dio è radicalmente causa della bontà e dell'essere dell'altro e nell'amare non migliora per nulla se stesso perché è il sommo e infinito bene. Inoltre nell'amore si dà un'identificazione tra l'amante e l'amato. L'oggetto diventa simile al soggetto che ama e il soggetto a sua volta si identifica con l'oggetto. In Dio il primo passo si dà in modo radicale, nel fatto che l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio, ma il creatore non è ad immagine dell'uomo. Dio crea per amore e nell'amore, e l'uomo è radicalmente incapace di restituire qualcosa di proporzionato a quanto riceve. Per amare Dio abbiamo bisogno che Lui ci doni perfino l'amore per amarlo. Il fine della creazione è dunque il dono, poiché il Creatore stesso è dono e amore, e l'agire rivela l'essere.